Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 14 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutte, rieccovi su Liberi Dentro Eduradio TV, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Questo programma che parla tra carcere e città tutti i giorni, un'ora al giorno, tra rubriche e rassegna stampa nazionale e internazionale. Io sono Caterina Bombarda, la conduzione, qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Continuiamo da ieri. L'indagine sulla delinquenza dei minori in Europa, questo rapporto Minori Dentro, pubblicato su Repubblica, in particolare questa delinquenza in Italia. Abbiamo detto che l'Italia non registra dei dati così alti di tassi di criminalità giovanile come accade invece nel resto dei paesi del nord e del centro Europa. Certo, il confronto dei dati statistici non è semplice, anche perché il limite della punibilità cambia a seconda delle nazioni, passando dagli 8 anni in Scozia, ai 10 dell'Inghilterra, ai 12 in Olanda e Irlanda, e sicuramente c'è una quota di reati che non viene segnalata o comunque sfugge alle autorità preposte. Caterina, se volessimo fare un quadro della situazione italiana, cosa potremmo dire? Ma allora, l'Italia è uno tra i paesi europei che fa meno ricorso al carcere per i reati commessi da minori. 375, pensate, nel 2018 erano ragazzi rinchiusi in 17 istituti di pena sparsi nelle varie regioni italiane. Sono veramente pochi se pensiamo alle statistiche nel resto dei paesi europei. Mentre in Germania, per l'appunto, e Francia, ad esempio, la carcerazione di minori è 3 volte superiore, in Inghilterra 4 volte, in Polonia addirittura 5 volte maggiore. Certo, all'Italia non si può rimproverare una scarsa coerenza tra le affermazioni di principio e le effettive politiche, ma il più cauto ricorso al carcere non ha prodotto di per sé un aumento del crimine minorile, anzi lo ha ridotto. Quindi questo significa che il sistema penale basato sulle comunità di accoglienza, quindi le misure alternative al carcere per i minori e su una modalità di pena che punta sul reinserimento sociale attraverso i percorsi formativi e di studio, regge e è un fattore positivo nonostante le tante difficoltà segnalate dagli stessi operatori comunque. E questo dato ci conforta, però proviamo a partire dai dati appunto per capire esattamente di cosa parliamo quando ci occupiamo di criminalità minorile in Italia, perché in effetti, Caterina, i dati sono quelli, le cifre, i numeri sono quelli che ci fanno conoscere meglio il nostro paese. Sì, la maggior parte dei reati dei minori si registrano nelle 14 città metropolitane indicate come tali dalla legge del 2014. È quasi a dimostrare che il disagio delle periferie, delle grandi città, resta una delle cause più influenti del reato. E anche per quanto riguarda la criminalità minorile, ancora più rispetto a quella degli adulti, la connessione tra spazi urbani degradati, la mancanza di scolarizzazione per gli autoctoni e le integrazioni degli stranieri si dimostra quasi in automatico quella spinta che induce a infrangere le norme. Infatti il 42% di tutti i reati dei minori avviene in queste 14 aree metropolitane italiane. Ma il primo dato sorprendente è che gli indici di delittuosità dei minori presentano dei valori superiori alla media nazionale nelle regioni del nord e del centro rispetto a quelle del sud. Ed è veramente un dato sorprendente questo, perché spesso quando nell'opinione pubblica si pensa a quali sono le città dove si delinque maggiormente, tutti dicono Napoli. No, non è così. Ma la cosa appunto più singolare di tutte è che la città con l'indice più alto di criminalità minorile non è Napoli, non è Palermo, non è Reggio Calabria, ma è Bologna, cioè una delle realtà urbane dove più hanno funzionato e funzionano i servizi sociali di ottima qualità, tra l'altro, una cosa che sembra in netta contrapposizione a quello che ho detto sopra riguardo al degrado delle città e gli indici di criminalità. È un dato questo che deve comunque far riflettere, anche i sociologi lo stanno studiando, perché non è di facilissima decifrazione. E il capoluogo dell'Emilia, cioè Bologna, distanzia di gran lunga le altre città, e come dati della criminalità minorile, a Bologna in media pensate che per ogni 10.000 minorenni ne vengono arrestati o denunciati 260, è un numero veramente alto. Per ora vi lascio un attimo per sdrammatizzare con questa bellissima canzone di Francesco Guccini, Bologna, e noi ci rivediamo tra pochissimo. Dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano, ed il culo sui colli, Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi in minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra Assenzio cantava, ed io modenese volgare a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. E rieccovi, bentornati sempre sul nostro programma Liberi Dentro di Radio e TV. Dopo la pausa musicale ritorniamo col nostro martedì itinerante con te, Antonella. Continuiamo a viaggiare, magari approfondendo delle parole, vero? Sì, sì, infatti oggi approfondiamo delle parole e viaggiando nel Mediterraneo, perché abbiamo già fatto alcuni viaggetti insieme, siamo andati ad Algeri, Tunisi, Marrakesh, e abbiamo spesso sentito parlare di alcuni luoghi presenti in molte città, però vorrei tornare un attimo in Marocco, anzi vorrei chiedere alle persone ristrette, ma anche non ristrette, che conoscono queste aree, che magari provengono proprio dal Marocco, di scriverci, di scrivere le loro parole particolari, forse proprio le parole che portano nel cuore. E ricordo qual è la mail, redazione liberi dentro, @gmail.com. Intanto cominciamo, che cos'è una città imperiale? Tu lo sai, Caterina, che cos'è? No, dimmelo tu. Allora, una città imperiale è una città che è stata nominata in un determinato periodo capitale del Marocco. In Marocco e in seguito a diverse dinastie, quattro città imperiali sono le più importanti, sono quelle ricche di storie che meritano assolutamente una visita. Mi riferisco a Rabat, Fez, Meknès e ovviamente Marrakech. Ma Antonella, che cos'è una casbah? La casbah è una fortificazione presente in abbondanza nel sud del Marocco ed è costruita con pietre, paglia e terra, rappresentando una residenza dei signori, un castello fortificato del villaggio che la segue. La casbah è un importante patrimonio dell'architettura marocchina, è una componente inedita nelle realizzazioni del film, in realtà si possono vedere anche in altri posti, non soltanto in Marocco. E invece, continuando un po' la nostra perlustrazione di parole, una jama? È un luogo di culto marocchino e la jama in arabo significa moschea. È il luogo dove tutti i seguaci dell'Islam si riuniscono per fare il salat, che è la preghiera. La jama è aperta anche a chi vuole imparare a recitare il Corano e di solito comprende anche infatti una scuola coranica. Ecco, poi un'altra parola che qualche volta ho sentito è moussem. Che cos'è? In Marocco il moussem o festa si riferisce in realtà a un evento culturale o religioso durante il quale tutti gli abitanti della regione sono attivi per celebrare un tema specifico, il raccolto, l'omaggio a un santo o un'antica tradizione della regione. I più famosi sono i Mussem delle ciliegie, i Mussem di Tantan o il Mussem del fidanzamento di Imilcil. E poi c'è, Caterina, anche lo Jinan, che in arabo significa giardino, ed è un'area di vegetazione coltivata e incolta o incolta che fa da sfondo a diverse abitazioni. Anche all'esterno gli jinans si trovano spesso nei palazzi, nei xar o anche nei riad più grandi, insomma sono dei giardini molto belli. E per concludere però vi voglio dire due parole sulla musica gnawa, che è un viaggio spirituale ma anche culturale. Infatti è iscritta dal 2019 nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. E la musica gnawa racconta la storia degli schiavi dell'Africa subsahariana con canti e danze che sono i rituali adottati appunto dagli gnawas. Gli artisti poi indossano costumi colorati e cantano al ritmo di alcuni strumenti musicali precisi che sono, non so se li pronuncerò bene, l'Ungwembri e il Kwarkeb. Chiamando artisti tra l'altro da tutto il mondo, pensa che sono arrivati anche i Led Zeppelin, Pat Metheny, Didier Lockwood e Marcus Miller a suonare in Marocco proprio per cantare e suonare a fianco di questi musicisti. Proprio per questo vi voglio far ascoltare In of Gnawa con il brano Tura Tura. Ascoltiamolo insieme. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Continuiamo il nostro viaggio tra le memorie con il giornalista Paolo Aleotti. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ospite con noi da alcune settimane, appunto giornalista e documentarista per tanto tempo per la RAI e che da anni conduci il laboratorio Teleradio Reporter al carcere di Bollate. Allora, un po' il tema di oggi è, dopo i viaggi in Medio Oriente, il ritorno in Italia, le inchieste che hai fatto un po' dal mondo nascosto, dopo ci dirai quali, e anche qualche tentativo di evasione. Ma andiamo direttamente a bomba. Dopo il tuo ritorno, l'ultima volta ci hai parlato del Medio Oriente e del rischio che avete corso tu e Giovanni Floris di finire in carcere in Iran, e voi siete stati... Sì, in effetti ero io in Iran e con Giovannino Floris in Libano. Mamma mia, che storia. Dove ci porti oggi? Cosa ci racconti? Ma potrei portarvi intanto a Cracovia, perché negli ultimi tempi, appunto, sempre a Ballarò, stava per morire purtroppo Giovanni Paolo II. E quindi Ballarò mi chiese di andare a Cracovia per capire in che modo questo Papa, che io avevo conosciuto all'inizio, perché non so se poi l'ho raccontato, ma insomma viaggiavo con lui, facevo il vaticanista e quindi l'avevo conosciuto quando parlava 6, 7, 8 lingue ed era una specie di Superman, essendo però, come dire, qui sulla Terra, ma essendo comunque una persona di Dio, la più importante sulla Terra, no? Scelta da Dio per guidarci. E allora sono andato a Cracovia per cominciare a capire chi era davvero, chi era stato questo Papa, che francamente ho trovato fantastico e fortissimo, e non parlo ovviamente della parte politica, quella è un'altra storia, però da un punto di vista veramente umano e di fede, una persona potentissima, e lì ho conosciuto le persone che l'avevano conosciuto da giovane, ho conosciuto una che era stata addirittura una sua fidanzata, perché come sappiamo Giovanni Paolo II, prima di diventare prete e poi Papa, aveva avuto, voglio dire, una gioventù come tutti noi, aveva fatto l'attore. Ecco, sono andato alla scoperta del Giovanni Paolo II, che non conoscevo bene e che francamente mi ha affascinato tantissimo. E quindi Paolo, poi spostandoti a Milano, oltre a diventare autore della trasmissione Che Tempo Che Fa, per un anno hai anche lavorato con Enzo Biagi, il fantastico giornalista Enzo Biagi, facendo inchieste sociali da quelle che io chiamo un po' il mondo nascosto. Raccontaci che cosa hai fatto. Un'esperienza meravigliosa, perché Enzo Biagi io lo conoscevo semplicemente come giornalista, lo ammiravo e stimavo molto, era uno dei miei modelli, anche se poi io di modelli non me ne sono mai messi tanti, ma soprattutto lui era un modello per la serietà, non per le cose che faceva, voglio dire, mi sento molto differente, molto più piccolo naturalmente, e però lui aveva questa serietà, questa capacità, questa incredibile possibilità di circondarsi di persone bravissime, cioè la sua bravura era quello di trovare le persone più brave del mondo che però non gli facessero mai ombra. Dunque aveva una specie di, come si può chiamare, corte di persone, casomai anche più brave di lui in tanti campi, ma che lui sapeva gestire in una maniera stupenda, e poi personalmente era bravissimo, aveva una curiosità formidabile. Mi spinse a guardare l'Italia di allora, che era l'Italia della disoccupazione che cominciava a cogliere i cinquantenni, della droga, e quindi gli facevo i giri di notte con la polizia per vedere le nuove droghe, anche quelle sintetiche, e poi i Rom. Ci furono degli episodi piuttosto pesanti che riguardarono i Rom e che io andai a cogliere nei campi che erano stati bruciati da facinorosi, dico la verità, di destra, mi spiace dirlo, ma è così, insomma. E questo incontro fu bellissimo con i Rom, anche perché io avevo conosciuto dei Rom molto tempo fa, quando facevo le prime inchieste, per scoprire appunto che sono portati dal vento, sono come le canne al vento, che si piegano e non si spezzano, che sono tra i più grandi poeti che possiamo incontrare. Grazie per questa immagine poetica con cui ci lasciamo un secondo per un brano musicale. Lanciamo? Allora, visto che stiamo parlando di Rom, Coracanè, che significa a forza di essere vento, per l'appunto, è di Fabrizio De André. Ascoltiamola. Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pan, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario. Ben tornati sulle note di Coracanè, lanciata dal nostro Paolo Aleotti, la canzone di Fabrizio De André. Paolo, ci siamo lasciati con le inchieste dal mondo nascosto, un po' la tua fotografia scattata sull'Italia di 20 anni fa, i problemi sociali di allora, che forse ancora oggi un po' ci trasciniamo, chiaramente, ma la tua vita da giornalista è sempre stata affezionata anche al versante della pellicola, tu sei anche un bravissimo documentarista. Ormai è nota la tua passione per costruzione di documentari, ed è vero che in quegli anni ti hanno fatto girare anche un documentario in Siberia? Del governo russo all'Italia, perché c'era la volontà da parte appunto dell'ex Unione Sovietica di rovesciare gli stereotipi sulla Siberia, che io avevo sempre conosciuto, che era conosciuta soprattutto per essere stato un grande posto, dove un gulag, dove i dissidenti del regime sovietico venivano chiusi. E allora mi chiesero di fare questo viaggio con la Transiberiana, perché era sempre stato un mito per me questa linea ferroviaria che per 6 giorni ti porta fino alla Cina e poi tornare indietro. Io non sono arrivato fino alla Cina, ma sono andato appunto attraverso questi freddissimi posti, bellissimi e molto sconosciuti, per scoprire che appunto questa ex grandissima prigione, così me la ero vissuta io, si stava schiudendo, voleva aprirsi all'Occidente, voleva aprirsi alle nuove cose, e l'Occidente arrivava, le donne coi tacchi su queste spianate di ghiaccio pazzesche, le città ancora secretate che ci sono, che però ci fecero la promessa di aprirle per noi se fossimo tornati. Insomma, c'era questa volontà di apertura, e per me era bello vedere che una grande prigione come quella si apriva al mondo e al progresso, al futuro. Quindi tu sei stato molto umile a non dire neanche il nome del tuo documentario, lo dico io, La bella addormentata tra i ghiacci, lo trovate su dove? Dillo tu, Paolo. Si può trovare, credo, su RaiPlay, e era stata trasmessa proprio da Ballarò come dei frammenti e preceduta da una chiacchierata appunto con Giovanni Floris, che mi chiedeva: ma che sei andato a fare in Siberia, Paolo? Mi chiedo anch'io, ma lo so, per scoprire una parte di mondo. Allora, continuando questo viaggio con te sul treno verso la Siberia, lancio io La locomotiva dei Modena City Ramblers. E noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao Paolo. A presto allora. Ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli.